Freestyle è in collaborazione con inota.it. Chatta, gioca, condividi, sfida i tuoi amici sul nuovo portale del business. www.inota.it. Registrazione gratuita per la tua azienda. Indicizzazione sui maggiori motori di ricerca. www.inota.it. Inota, il nuovo portale per dare visibilità alla tua attività commerciale. Inota.it è anche il social network con tutto quello che puoi volere a tua disposizione. Tutto italiano, con le sfide che ti intratterranno 12 mesi su 12, alle quali puoi partecipare e ricevere i fantastici gadget personalizzati Inota. Inota, inota.it. Condividi foto, video, immagini, crea i tuoi gruppi e partecipa agli eventi su www.inota.it. Inota, inota.it. Chat in tempo reale, giochi multiplayer, videochiamata e tant'altro. www.inota.it, il portale del business. Ma ora in onda Freestyle, il meglio della musica hip hop su CRM P Radio con Isabelle e Iaco. My big gun with fool. I don't like your attitude. You do shit that them hoes on the rag do. Whole faggot, you better watch your mouth before I be in front of your house. When your ass come out, whole bitch ass. Hold another nigga dick ass. Bitch ass nigga. Just looking at a nigga like he gon' tell something. I fuck around and kill you. So your mug is sick, you ready? Yo, if this shit gets silly, I'm letting it go. Front street or in the front seat. You ever come my way, it's gon' be gunplay. Hey, I ride with it. Get high and spit fire, the AK. Okay, let a nigga play and watch TWD. Knock your ass off the free seat. I'm a dead kind of Chevy boy. We dry candy toy and tote guns galore. That trauma like a Tonka toy. And got shit you niggas ain't seen before. Please stop. Boom, it's on. Bitch nigga, we'll rock them dome. Boom, it's what's happening. D. We in this motherfucker, crunk in this motherfucker. Atlanta niggas with a Miami ball. And I still like to play with my Tonka toy. I'm a Toys kid, yes I is. You can't be serious, yes I is. You think I'm playing, then ask my brother. You still don't believe me, then ask my mother. Cause I love my gun, I play with my gun. I fun with my gun, hey I sit with my gun. And I don't pull that motherfucker out for fun. Cause I ain't finna give your ass time to run. I'ma bust one time, bust two times. By the third time, your ass is mine. For the count, you can't get up. Damn, you fight, you can't get up. Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. What? One taste of what I got. Uh-huh. I'll have you spending all you got. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up, or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental. On the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. Hey, your fans teasing you about how sprung I got you. Wanna show me you can work it, baby? No problem, get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to the shit. After you woke up a sweat, you could play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your I hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Freestyle. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Girl, what we do. What we do. And where we do. And where we do. The things we do. Things we are do. Are just between me and you. To me, baby, nice and slow. Climb on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before. Cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touched the right spot at the right time. Lights on, a light source, she like it from behind. So seductive, you should see the way she whine. Her hips are slow-mo on the floor when we grind. Long she ain't stopping, homie. I ain't stopping, dripping wet with sweat, man. It's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle is on, and we gon' sip to every bubble, and every bottle is gone. I take you to the candy shop. She work. And then I like to see them females twerk, taking the clothes off, bucking naked. AGL, don't disrespect it. I put a pop yo pussy like this, cause you ain't twins in this B.I.S. Lil' Johnny, side boys with me, and we all like to see ass and tears. Now bring your ass over here, ho, and let me see you get low. If you want this dub, now take it to the floor. Now if your ass wanna act, what? Then you can keep your ass where you at. 369, damn it. You scared? loose. Go ahead and relax. Let me play with your pretty kitty, your pretty rhythm. Let me play with your wrist. I'm the Chico that'll take you to ecstasy. What you waiting for? Let's go, let's go, let's go. When we finish tonight, I guarantee that you'll be calling me back for some more, more, more. But at the same time, I want you to teach me a little something, baby, just spoil my mind. You know what I mean, the one below the waistline. You know me, baby, I'm freaky. Baby, I'm freaky. Baby, I'm freaky. Baby, I'm freaky. Freaky. Baby, I'm freaky. Oh yeah, loca. Ven back. Come here. Oh yeah, loca. Ven back. Come here. What? Muévelo, muévelo sin parar. Let's go. Si tú quieres que te coma toda. Si tú quieres que te coma toda. Si tú quieres que te coma toda. Abre las piernas, dale. Toma. I'm gonna make that thing bang. I mean, it's time for y'all to get all the way wild and loose. Yeah. I don't care if you got a man, you single, whatever. What? It's time. It's time. It's time. It's time. Let's go. Quítate la ropa. Quítate la ropa. Come on. Quítate la ropa. Si estás caliente, quítate la ropa. Quítate la ropa. Quítate la ropa. Come on. Quítate la ropa. Si estás caliente, quítate la ropa. What? Per uno spot pubblicitario. Freestyle, il meglio della musica hip hop su CRM più radio con Isabelle Iaffo. I'm ben ritrovati anche per questa settimana all'interno di Freestyle, l'appuntamento hip hop soul ed R&B di CRM Happy Radio, dove vedete protagoniste naturalmente Ise e Iaco, ma soprattutto la vera protagonista è la musica, naturalmente voi che amate questo sound. Allora, noi abbiamo iniziato praticamente come di consueto, naturalmente con i pezzi più in, quelli che hanno fatto la maggior posizione nelle classifiche nel tempo passato, quindi con un mix del nostro Iaco, e adesso ufficialmente entriamo con la grande musica, la musica nuova, quella del momento, quella che praticamente sfodera le classifiche, si trovano nei piani alti. Vi diamo subito i numeri per poter interagire con noi, ovvero il 335 5637 251, che è la nostra messaggeria ufficiale, isaiaco@crmpiradio.it, e naturalmente www.crmpiradio.it per poterci ascoltare in streaming. Come sempre, anche questa settimana, due ore insieme, due ore di grande musica, due ore di stile. Parleremo su quello che accade nel mondo hip hop, soul ed R&B, chatteremo un pochino e sonderemo per vedere i rappers cosa hanno combinato. Si parlerà anche di classifiche, degli album più venduti e degli album che tutto sommato sono stati registrati come i migliori del 2010, visto che ci si avvicina naturalmente alla fine dell'anno anche per questo. E allora basta parlare, adesso continuiamo con la musica e lo facciamo con My Chick Bad. I'm saying my chick bad, my chick hood, my chick do stuff that your chick wish she could. My chick bad, badder than yours. My chick do stuff that I can't even put in words. Her swagger don't stop, her body won't quit. So full pipe down, you ain't talking about shit. My chick bad, tell me if you seen her. She always bring the racket like Venus and Serena. All white top, all white belt, and all white jeans, body looking like milk. No time for games, she's full grown. My chick bad, tell your chick to go home. My chick bad, my chick hood, my chick do stuff that your chick wish she could. My chick bad, my chick hood, my chick do stuff that your chick wish she could. My chick bad, better than dirt. My chick bad, better than dirt. My chick bad, better than dirt. Now your girl might be sick, but my girl sicker. She rides that dick and she handles her liquor. I'll knock a bitch out and fight. Coming out swinging like Tiger Woods' wife. Yeah, she could get a little hasty. Chicks better cover up their chest like pasties. Couple girlfriends and they all a little crazy. Coming down the street like a parade. Macy's. I fill her up. Balloons. Test her and guns get drawn like cartoons. But I ain't talking about Homer. Chick so bad the whole crew wanna bone her. My chick bad, my chick hood, my chick do stuff that your chick wish she could. My chick bad, and I'm loving my chick hood, my chick do stuff that your chick wish she could. My chick bad, better than dirt. My chick bad, better than dirt. My chick bad, better than dirt. My chick bad, better than dirt. Now all these bitches wanna try and be my bestie, but I take a left and leave them hanging like a testy. Trash talk to them, then I put them in a hefty. Running down the court, I'm dunking on them, Lisa Leslie. It's going down, basement, Friday the 13th. Guess who's playing Jason? Tuck yourself in, you better hold on to your teddy. It's Nightmare on Elm Street, and guess who's playing Freddy? Chef cooking for me, they say my shoe came crazy. My Chick Bad, nuovo singolo per Ludacris insieme a Nick Mani. Eminem conquista ben 10 nomination nei prossimi Grammy Awards 2011, riconoscimento musicale più importante tra l'altro negli Stati Uniti. Gli artisti in gara sono stati annunciati praticamente la scorsa settimana, 1 dicembre al Grammy Nomination Concert Live presso il Club Nokia di Los Angeles. Beh, il rapper di Detroit ha battuto ogni record e tra alcune delle categorie dove è stato nominato si contano album dell'anno con il suo ultimo lavoro Recovery, canzone dell'anno e Best Stored for Music, Music. Video grazie col naturalmente al duetto coreano in Love the Way You Lee. Best Rap, solo performance, Best Rap Song con Not Afraid. Beh, risultato strepitoso anche per Bruno Mars, artista MTV Push, che dopo Eminem è stato l'artista più nominato praticamente in 7 categorie. Tra le donne in gara invece non potevano assolutamente mancare Lady Gaga, Katy Perry e Beyoncé. Per la cerimonia poi di consegna dei Grammy Awards 2011 è in programma per domenica 13 febbraio 2011 allo State Center di Los Angeles. Quindi i miei complimenti veramente ad Eminem. Adesso facciamo un salto un pochino indietro nel passato. Mi ricordo quando è uscito questo singolo veramente richiestissimo, ai numero uno di tutte le classifiche. Lui è Panjami con Mondiam Toothback. ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ Grande successo del passato insieme a Panjami MC con Mondiam to the Back all'interno di Freestyle. Anche per questa settimana insieme a Dizzy Yank ascolterete tanta buona musica hip hop, soul ed R&B, le classifiche, tutto quello che concerne in questo mondo. Adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa, fermi lì, si ritorna dopo ancora con la grande musica. Freestyle con Isabelle Yank. Watch me as I dance under the spotlight. Listen to the people screaming out more and more. Cause I create the feeling that keep them coming back. Yeah, I create the feeling that keep them coming back. So captivating when I get it on the floor. Know y'all been patiently waiting. I know you need me. I can feel it. I'm a beast. I'm an animal. I'm that monster in the mirror. The headliner, finisher. I'm the closer, winner. Best when under pressure with seconds left, I show up. If you really want more, scream it out louder. Get it on the floor, bring out the fire and light it up. Take put them in the air if you want more and more. Cause I can break and feel it, I go hard, can't stop. But if I stop it, just know that I'ma bring it back. Hey. Never quit, no believing that. Oh, y'all been patiently waiting, I know you need me. I can feel it, I'm a beast, I'm an animal. I'm that monster in the mirror, the headliner, finisher. I'm the closer, winner. Best when under pressure, with seconds left for sure. If you really want more, scream it, I'm louder. Get it on the floor, bring out the fire. Light it up, take it up higher. Gonna push it to the limit, give it more. If you really want more, scream it, I'm louder. Get it on the floor, bring out the fire. And light it up, take it up higher. Gonna push it to the limit, give it more. Lui è Usher con More. Voi siete all'interno di Freestyle anche per questa settimana, il sound hip hop, e parliamo proprio di More. Questo è il nuovo singolo di Usher. Il pezzo è stato un attimino riadattato, praticamente ben creato da Red One, ed è stato reso ancora più elettronico, quindi più un club banner prodotto e pronto naturalmente ad esplodere. Indubbiamente il brano è potente ed incisivo, ma direbbe la verità, io preferisco la versione contenuta all'interno di Raymond vs. Raymond. Questa edit è veramente, come dire, troppo elettronica e scontata per uno naturalmente come Usher. A quanto pare More sarà il nuovo singolo estratto dall'album Raymond vs. Raymond di Usher, quindi la up tempo prodotta da Red One alle carte regola per diventare un altro successo internazionale. Il pezzo è stato usato anche per gli NBA All-Star Game con un buon riscontro di pubblico, tanto più che nella settimana di release del disco More debutta alla posizione numero 89 della charts single, e quindi diciamo che non può assolutamente lamentarsi come nuova entrata. Voi che ne dite di questo singolo? Secondo voi merita o non merita? Fateci sapere un attimino al 335-5637-251. Naturalmente mandateci una mail a disayaco@crmpiradio.it. Ogni venerdì l'appuntamento hip hop, soul ed R&B su CRM Piradio e Freestyle naturalmente con Isayaco, e ci beccate anche nella zona weekend di CRM. Quindi se avete voglia di riascoltarci, avete perso questo appuntamento, beh, sapete, le giuste coordinate ve le abbiamo date. Adesso si continua con la musica, lo si fa con Pass Out di Tiny Tempoff, un artista che sta esplodendo. Star and I wrote my fucking cars down. I live a very, very, very wild lifestyle. Heidi and Audrina, eat your heart out. I used to listen to you, don't wanna bring arms out. I've got so many clothes, I keep some in my aunt's house. Disturbing London, baby, we about to branch out. Soon I'll be the king like Prince Charles. Yeah, yeah. man, there ain't nobody fresher. Semester to semester, raving with the freshers. 20 light bulbs around my table and my dresser. CLC compressor, just in case that don't impress her. Say hello to Dexter, say hello to Uncle Presta. Got them gazing at my necklace, I'm a crazy sun protectors. G-Shots, I got a crazy dumb collection. Haters, I can't fucking hear your reception. Yeah, we bring the stars out. We bring the women and the cars and the cars out. Let's have a toast, a celebration, get a glass out. And we can do this until we pass out. Let it rain, let it pour. We won't come down until we hit the ground and pass out. Yeah, she was meant to last me 24 hours. Say hello, they say hola, and they say bonjour. I'm pissed I never got to fly on a Concorde. I've been Southampton, but I've never been to Scunthorpe. I'm fucking crazy with the kicks, call me Jean-Claude. I'm about to be a bigger star than my mum for. Cause every day I got a groupie at my front door. Now I drive past the bus I used to run for. Where's my fucking clap? Where's my uncle? I walk alone, cause I was born alone. I trips are just for fun, I'll never ever call a phone. I leave her in the club, I'll never ever walk her home. D.O. the fucking foundation, I'm the cornerstone. I'm getting famous, I'm super known. And if your son doesn't, I bet your daughter knows. Check out my visual, check out my audio. Extraordinary, yo, hope you enjoy the show. Yeah, we bring the stars out. We bring the women and the cars and the cars out. Let's have a toast, a celebration, get a glass out. And we can do this until we pass out. I've been a cheeky bastard, man. And look up with the drama we started. Now I'm in here laying on my back, singing DJ, won't you give me one more track? Freestyle è in collaborazione con inota.it. Chatta, gioca, condividi, sfida i tuoi amici sul nuovo portale del business. www.inota.it. Registrazione gratuita per la tua azienda, indicizzazione sui maggiori motori di ricerca. www.inota.it. Inota, il nuovo portale per dare visibilità alla tua attività commerciale. Inota.it è anche il social network con tutto quello che puoi volere a tua disposizione. Tutto italiano, con le sfide che ti intratterranno 12 mesi su 12, alle quali puoi partecipare e ricevere i fantastici gadget personalizzati Inota. Inota, inota.it. Condividi foto, video, immagini, crea i tuoi gruppi e partecipa agli eventi su www.inota.it. Inota, inota.it. Chat in tempo reale, giochi multiplayer, videochiamata e tant'altro. www.inota.it, il portale del business. Prince. Is it end up to something? All hell to the chief with them diamond teeth in his mouth. Make way, way, way. Cheney is about to enter. King commit his secession. But first on the agenda, been the cone on the foes. Leg turning on the bows. One time for the haters. Two times for the hunters. I suppose it's only right for me to grip up on the cherry. Oakwood wheel while I'm dripping cranberry. And very few have accomplished what we have achieved without a rabbit out of a hat or a trick up the sleeve. Trick up the sleeve. I got a steady hand. And a steady flow. So on your mark, get set. Ready, go. You already know. We be pulling up in a hot whip. And that's when we just start the show. Whoa. Now if you're getting money and got whips, you pull up for your stop and go. This is the way we stop and go. Don't block my way. We stop and go. Whistles and whistles and pouring a big drain. $100,000 in my prom set lane. I got two on, that's 200. You gon' go crazy, crazy trying to count my money. I came from the bottom, they hate me like I'm a solder. 190 Spur House in Nevada. Vada, Vada, Vegas, Vegas. I'm a paper pimping through Selwyn Vegas. Vegas. Let me show you how we keep the parking lot on fire. Full kit on my 26 inch tires. Yokohamas and the wheels still wood. Keep a bag, yellow bag. Cause my deep good when you see us in the hood. We be pulling up in a hot whip, and that's when we just start the show. Whoa. Now if you're getting money and got whips, you pull up on your stop and go. This is the way we stop and go. Don't block my way. Okay, he'll get the cake and the drought. Whoa. Pull up in the spot with the brains blowed out. Cost a house. UGK and Jazzy Faye show up and show out. You wanna chill with the crew. Kick it in the crib on the hill with the view. You know wanna holler. What it is, what it do. She love me for my old school drops and rock. Cause my whip be the truth. Whoa. The wheels never pause. Counterclockwise when I skirt on them all. And once she fall through and see the plaques on the wall. She probably call a couple friends. Call them all. Down come the draw. We be pulling up in a hot whip. And that's when we just start the show. Now if you're getting money and got whips, you pull up on your stop and go. This is the way we stop. This is the way. Don't block my way. We stop. Questo è un altro ripescaggio nel bauletto del nostro Iaco, Stop and Go per WJK all'interno di Freestyle, l'hip hop, il soul e l'R&B anche per questa settimana. Pensate, 37.000 copie e mezzo, questo è il debutto, la numero 43 in Billboard Top 200 album. Questo è il risultato imbarazzante del quarto album di Ciara, Princess Harry's Basic Instinct, la bella crunk princess stavolta non si è completamente arresa, quindi si è data alla grande, continua a promuovere un disco già morto alla nascita, quindi diciamo che per lei è stata una grande avventura e ce la sta mettendo naturalmente tutta. Adesso continuiamo con la musica nuova, lei è Rihanna, Holy Girl. Ancora ben ritrovati anche per questa settimana all'interno di Freestyle insieme a Disaia con la grande musica. You to make me parliamoci ancora di quelle che sono le notizie che riguardano naturalmente i rappers, di quello che combinano, di quello che producono, perché dopo Winner e Living Better Now, Jamie Foxx adesso schiera Fall For You Tape come terzo singolo estratto dal nuovo album Best Night of My Life, e sarà proprio il brano cantato in collaborazione con Drake a trainare la release del disco. La mid-tempo prodotta da Noah 14, Shabib e Night Wonder non è niente male, con un po' di promozione secondo me potrebbe fare bene anche in classifica. Poi tra l'altro il video che accompagna la canzone è stato anche premiato, quindi diciamo che promette del tutto bene. Io ancora una volta voglio ricordarvi l'appuntamento di Freestyle ogni venerdì dalle 19 alle 21, e poi come vi ho sempre ricordato, se vi perdete questo appuntamento naturalmente ci beccate nel fine settimana, quindi nella zona weekend di CRM Happy Radio, per gustare ancora una volta il pop, il sole, l'R&B di Freestyle con Isaiah naturalmente su CRM Happy Radio. Adesso arriva Kid Cudi, Can West, Come On con Make Your Say. Me first. She wanna have whatever she like. She can if she bring her friend. And we can have one hell of a night through the day. Hey, I mean, staring like a creeper, cause you got a beeper. I mean, you probably might be saying you ain't jogging either. But man, old girl got a fat old ass. Yeah, the type to make you tell a bitch just dance. And fuck them other niggas, cause you down for her bitches. Fuck them other niggas, cause she down for the sticking. And fuck them other niggas, hope she down for some licking. And fuck them other bitches, cause she down for the tricking. I'm hoping she a rider. When it's said and done, she spit it up and swallow now. I ain't got a trip about the niggas who like her. Cause me and mommy know who can really make her go. Yeah, yeah. When I poker face, poker face, I make her say, yeah. When I, hey, what she talking about, yeah, yeah, yeah. She said she want whatever she like. She said she gon' bring her friend. And we gon' have a hell of a night through the day. I made her say, hold up, born in 88. How old is that? Old enough. I got seniority with the sorority. So that explains why I love college. Getting brain in the library, because I love knowledge. When you use your medulla oblongata and give me scoliosis until I comatosis and do it while I'm sleep. Yeah, little osmosis. And that's my commandment. You ain't gotta ask Moses. More champagne, more toasts, more damn planes, more coasters, and fuck a bus, the Benz park like Rosa, Oza. When I poker face, poker face, I make her say, yeah. When I poker face, I make her say, she says she want whatever she like, but you gotta bring your friend, and we can have one hell of a night through the day. She blamed it on the alcohol. She had her head did it, was bound to fall down, down for a damn cut. He already said it, a poker Facebook, I already read it. But man, her head was gooder than the music. Electro body, known to blow fuses. A stripper from the south, looking for a payday. Said, bitch, you should do it for the love like Ray J. But they say, you be on that conscious tip. Get your head right and get up on this conscious dick. I embody everything from the golly to the party. It's the way I was raised on the south side safari. So, when I poker face, poker face, I make her say, oh, yeah. Oh, oh, oh. When I poker face, poker face. Con Isabella e Iaco, il sound hip hop su CRM è Freestyle. Nuovamente in diretta, lo si fa con le Pussycat Dolls featuring Snoop Dogg con Buttons all'interno di Freestyle anche per questa settimana, insieme a DJ Yaku, il sound di pop, soul ed R&B naturalmente e di scena. Adesso vediamo una notizia, perché sarà pubblicato Michael, primo dei 10 progetti discografici e Sony Records rilascerà nei prossimi 7 anni in conseguenza della stipula di un contratto multimilionario, pensate, 250 milioni di dollari, conclusosi alcuni mesi fa. Beh, il disco è anticipato da un singolo che va fortissimo in quest'ultimo periodo, nonché Hold My Hand, brano inizialmente registrato per l'album Freedom di Icon e terminato poi dopo la scomparsa del re del pop. A seguito delle polemiche relative, beh, l'origine del file audio contenuti all'interno del CD, beh, la casa discografica ha voluto un po' puntare su questo brano, dato la sua certa originalità, semplicità e naturalmente anche universalità. Il testo parla di fratellanza, messaggio che Michael ha cercato un po' di diffondere in tutta la sua carriera. Devo dire che il video che ho visto trasmette veramente a dovere questo concetto e fornisce alla canzone una spinta in più, traduce in immagini ciò che il testo esprime a parole. Per il momento il brano ha piccato alla posizione numero 50 all'interno della Billboard Hot 100 ed è alla sesta nella classifica singoli italiani, quindi assolutamente non si possono lamentare. Quindi sono sicura che l'uscita del video darà al pezzo una spinta in più per salire. Il beat è prodotto poi da Icon e MJ ed è intuitivo e lineare, semplice, accattivante, marchio di fabbrica poi naturalmente anche del cantante di Lolle. Sappiamo tutti che Icon naturalmente non ne sbaglia assolutamente una e anche con questo singolo sicuramente non lo ha fatto. A proposito di Hold My Hand, il brano che in quest'ultimo periodo ascoltiamo un po' ovunque, richiestissimo, noi ve lo facciamo ascoltare qui all'interno di Freestyle Freestyle anche per questa settimana, l'hip hop, il soul, l'R&B di scena. Ci beccate anche nel fine settimana, eh? Searching for them just stay the same. So don't asking if you look okay. You know I'll say when I see your face. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you smile, tutto sommato neanche lui può lamentarsi. Parliamo di Bruno Mars, che sta testendo ancora in sottofondo con la sua Just the Way You Are, anche lui diciamo pure che nei piani alti della Billboard Hot 100. Adesso Freestyle, Lisa Jacob, vi lasciano per qualche istante, linea alla regia, però fermi lì perché dopo si torna con un brano hip hop direttamente dall'archivio del nostro Jacob. Freestyle è in collaborazione con inoda.it. Chatta, gioca, condividi, sfida i tuoi amici sul nuovo portale del business. www.inoda.it. Registrazione gratuita per la tua azienda, indicizzazione sui maggiori motori di ricerca. www.inoda.it. Inoda, il nuovo portale per dare visibilità alla tua attività commerciale. Inoda.it è anche il social network con tutto quello che puoi volere a tua disposizione. Tutto italiano, con le sfide che ti intratterranno 12 mesi su 12, alle quali puoi partecipare e ricevere i fantastici gadget personalizzati Inoda. Inoda, inoda.it. Condividi foto, video, immagini, crea i tuoi gruppi e partecipa agli eventi su www.inoda.it. Inoda, inoda.it. Chat in tempo reale, giochi multiplayer, videochiamata e tant'altro. www.inoda.it, il portale del business. Yeah. My name Grav, baby. Check. G-Mix. Look at here, Tuts. I'm trying to find you love, and I find you love, and I find your hot spot. I find your love, and go and tell your whole family. Find your cousin and try looking in my eye and try and find your husband. This is meat out. Girl, it's just meat out. Put your hand in my pants. Welcome to Home Depot. All that libido, that's all that you need, though. Pick your ass up, heave ho, and away we go. I mean, oh, we can do it right there in the kitchen. I want you naked. Move your apron, shift it. I don't know what you used to, but this is way different. It's hot, it's sweat straight tripping on the baked chicken. Your hair everywhere, all over your face sticking. I can tell when you coming up with your legs twitching. Smoke alarm going off while the neighbors listening. I'm aggressive, I tell you when to change positions, baby. I'm more than just an option. Hey, hey, hey. Refuse to be forgotten. Hey, hey, hey. I took a chance with my heart. Hey, hey, hey. And I feel it taking over. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find give all my love. And nothing's gonna tear us apart. I'm more than just a number. So every single summer, hey, hey, hey, I'll be the one that you remember. And I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find give all my tear us apart. It's more than just a mission. Hey, hey, hey. You hear care, but you don't listen. Hey, hey, hey. You better pay attention. Hey, hey, hey. And get what you've been missing. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I bet if I give all my love, and nothing's gonna tear us apart. Too many times I've been wrong. I guess being right takes too long. I'm done waiting, there's nothing left to do but give all I have to you. And I better find your loving. Your heart. I better find your loving. I better if I give all my love, then nothing's gonna tear us apart. I better if I it's a make me please, so don't provoke it, yeah. Provoke it, yeah. We don't need no speed, so we're not gonna coke it, yeah. Coke it, yeah. So to mind the teens, we gotta take it slow. So we're just the SP floating, don't provoke him. Cause the weed we'll be smoking, it is soaking. Best thing for the meditation. And the best I agree that Jamaican. We full of weed, we supposing and promoting. Loud the crack and the cooking, every shouting. Herbal healing of the nation. Legalize it right now, we publish one every day. We be burning, not concerning what nobody wanna say. Be earning dollars, turning car, we minded how we pay. Some got gold and oil and diamonds, all we got is Mary Jane. Legalize it, time to recognize it. This purple haze, it make me crazy, make me right up tune, and that's what fades me. But I'm not the only occupation, quite to get some, I can give you education. When a farmer grows it, he knows it flows with the economical benefit, helping those who have it. They up on the eye juggling, cause the system only keep man struggling. So the in people are use it, don't abuse it, cause the concentration will refuse it. That's why earth and them are the wise ones, and they found on the give of King Solomon. We good for the eyesight and the chest tight, and they giving up inside, just give me the light on. Make we blaze it, it should never waste it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning car, we mind if how we pay. Some got gold and oil and diamonds, all we got is maybe day. Legalize it, time to recognize it. Just give me the cheese, I'll make a smoke it, yeah. Smoke it, yeah. It'll make you please, so don't provoke it, yeah. Smoke it, yeah. We don't need no speed, so we're not gonna coke it, yeah. Coke it, yeah. So a minor tease, we gotta take it slow. So in the city, yes, be floating, don't provoke him. Cause the weed where we smoking, if it's soaking. Best thing for the meditation, and the best I get Jamaican. Come, we know it as a great thing, no debating. While them incarcerating, to them 18. Cause them know what's if we remain calm. Even though them got them siren on every day. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning cause we mind if how we pay. Some got gold and oil and diamonds, all we got is Mary J. Legalize it, time you recognize it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning cause we mind if how we pay. Some got gold and oil and diamonds, all we got is Mary J. Legalize it, time you recognize it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning cause we mind if how we pay. Some got gold and oil and diamonds, all we got is Mary J. Legalize it, time you recognize it. Just give me the cheese, I'll make a smoke it, yeah. Smoke it, yeah. Ancora una volta abbiamo effettuato un altro ripescaggio. Si tratta di Sean Paul, la sua Will Be Burning, singolo di qualche periodo fa, però che promette ancora bene perché si fa ascoltare, diciamo, con grande gradimento. Allora, sembra prendere una piega positiva la King of Ears, praticamente diciamo pure che era di Lloyd, il giovane cantante di New Orleans, è riuscito a far breccia nelle charts R&B, arrivando praticamente, diciamolo pure, alla posizione, lo diciamo Iago? Sì, diciamo, alla posizione numero 7, continuando a salire con la sexy e dolce Let It Down. Il nuovo CD uscirà proprio il giorno di San Valentino, quindi ancora un po' di tempo per aspettarlo e quindi gustarlo. Il prossimo, naturalmente, 14 febbraio, come secondo singolo è stata scelta l'uptempo Let Get It In con l'amico 50 Cent. Per promuovere il successo del singolo, il buon Lloyd è andato a cantare da beat, quindi devo dire che non ha certo il potenziale di Usher o Chris Brown, beh, tuttavia qualcosa che mi colpisce, un timbro vocale unico e particolarissimo. A proposito di Chris Brown, arriva il nuovo singolo. Put your troubles aside, start living. Anybody can let go, throw away all your problems, 'cause right now it's party time, girl. Isabelle Young. Ehi, imbottigliato un circo balla sulla City Pizza. Sì. E so voi che state a galla, che siete pizza. Per il cachet da miliardario come Rick Morillo. Mi resta il mega miliardario al bar Murillo. Nel mio quartiere non vanno i pizza davvero. Hanno l'impianto del Pascià nella Jeep di Carmelo. In testa cassa dritta dai tempi di Carbonero. Sì. Mi piace il mondo rap, ma pensano che c'è poco pelo. Sì. Io voglio andare dove ballano la dance. Coi cachet della dance. E le tipe con gli hot pants. Ricordo disco a quattro piste con le cubiste. Sì. Mo già da fuori per le liste, ci sono gli hipster. Quando finisco i concerti sono tutto sudato. Sì. Voglio svoltare le serata e solo col serato. Voglio viaggiare in prima classe, tutto spesato, da questa parte del mondo e dall'altro lato. Voglio andare dove ballano la dance. I cachet della dance e le tipe con gli hot pants. Io voglio andare dove ballano la dance. Coi cachet della dance e le tipe con gli hot pants. Io voglio andare dove ballano la dance. Sex, love, Mercedes Benz. E svegliarmi sulla spiaggia di Cancun senza boom boom cha, solo tunz tunz tunz. Fare tanto grano come Tiesto, senza la giornalista che mi stressa per il testo. La cassa dritta fra sempre ragione, e invece che in Italia vado in tour in Giappone. Io voglio andare dove ballano la dance, coi cachet della dance e le tipe con gli hot pants. Io giro nel business, yo. La gente fa oh, io faccio yes yes yo. Voglio stare alla console che sul palco, salto da una parte all'altra e rischio l'infarto. Il DJ pompa, non c'è niente da capire, sai che sbatti per me scrivere ste rime. Voglio andare dove ballano la dance con i DJ della dance. Entrare dal retro, DJ, manda questo disco indietro. Devi farmi entrare dal retro, Don, manda questo disco indietro. Voglio andare dove ballano la dance con i DJ della dance e le tipe della dance. Voglio andare dove suonano la dance nelle disco della dance con i soldi della dance. Anche loro quest'oggi fanno capolino all'interno della nostra Higher Play di Freestyle. Si tratta dei Club Dogo con Dance Dance Dance, ultimo loro singolo. Viaggia abbastanza bene, noi siamo contenti perché quando l'hip hop italiano viaggia, noi naturalmente ne siamo ben lieti di presentarvelo. Non riesce invece assolutamente ad uscirne con questo terzo album. Sia Kingston, dopo aver firmato successi come Beautiful Girl e Fire Burning, ora sembra non riuscire più a trovare la top 10 per poter lanciare il suo nuovo CD. Beh, certamente con questo nuovo singolo il ragazzo si butta sempre più in quel diciamo pattume musicale generico e veramente insopportabile oramai. L'uptempo dance prodotta dagli Stargate si chiama Part All Night Sleep All Day. Pure il titolo fa proprio pensare ad una canzone profonda e molto originale. Si tratta dell'ennesimo tentativo per lanciare il disco dopo averci provato con altri tre pezzi in featuring con Nicki Minaj e Justin Bieber, beh, di cui solo Dirty Love forse si salva un pochino. A sto punto, fossi lui, io mi rassegnerei un attimo, perché se deve riempire gli scaffali di musica con questo pattume, beh, allora meglio che torni in Giamaica a farsi qualche lezione per capire cos'è la vera musica. Poi d'altronde, quando fai dei successoni come naturalmente li ha fatti lui, poi ritornare appunto nella mischia è veramente difficile, perché naturalmente dopo aver raggiunto il successo non puoi e magari non devi permetterti di sgarrare, quindi il peso dei singoli si fa sentire naturalmente addosso. Questi invece ne hanno fatti di lavori, questo è stato uno dei tanti successi. Si tratta di The Game insieme a Charlie Wilson, Justin Timberlake. Parliamo di Things. Confusion and curse coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing, check out my melody. I wanna live good, so shit, I sell dope for a four finger ring. One of them gold ropes, Santa told me if I pass, I get a sheepskin coat. If I can move a few packs, I get the hat. Now that'd be dope, tossed and turned in my sleep that night. Woke up morning, stole my bike. Different day, same shit, nothing good. In the hood, I run away from this bitch and never come back if I could. Needed a love at the underdogs on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me, I'm Raps MVP. And I ain't going nowhere, so you can get to know me. Needed a love at the underdogs on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me, I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. On the grill of my lowrider, guns on both sides, right above the gold wires, I 4-5 them. Killing go on my song and really do it, that's the true meaning of a ghost rider. 10 G's to take your daughter out of Air Forces. Believe you me, homie, I know all about losses. I'm from Compton, where the wrong colors, be cautious. One phone call, I had your body dumped in Marcy. I stay strapped like car seats, been banging since my little Rob got killed for his Barclays. That's 10 years, I told Pooh in 95, I'll kill you if you try me for my Air Max 95s. Told Banks when I met him, I'ma ride, and if I gotta die, rather homicide. I ain't had 50 cent when my grandmama died. Now I'm going back to Cali with my Jacob on, see how time fly. The underdogs on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Day to the love of the underdogs on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. From the beginning to the end, losers lose, winners win. This is real, we ain't got to pretend. The cold world that we in, it's full of pressure and pain. Enough of me, now listen to game. Used to see 5-0 throw the crack by the bench. Now with 5-0, it's all starting to make sense. My mom's happy, she ain't gotta pay the rent, and she got a red bow on that brand new Benz. Waiting on shot money to land, sitting in the range, thinking how they spent $30 million on airplanes when his kid's starving. Pockets going and Brenda still throwing babies in the garbage. I wanna know what's going on, like I hear Marvin. No school books, they use that wood to build coffins. Whenever I'm in the booth and I get exhausted, I think what Marie Baker got that abortion. I love you, ma. The dogs on top, and I'm gonna shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Day to the love of the underdogs on top, and I'm gonna shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. La grande musica ancora di scena qui su CRM Happy Radio anche per questa settimana. Easy Yaku e la musica hip hop soul ed R&B all'interno di Freestyle. Lui e anzi loro erano i The Game con grande collaborazione con The Sinks. Adesso noi ci fermiamo per un'altra piccola pausa e dopo purtroppo ahimè l'ultimo rush finale, perché poi Freestyle anche per questa settimana chiude i battenti. Freestyle è in collaborazione con inota.it. Chatta, gioca, condividi, sfida i tuoi amici sul nuovo portale del business www.inota.it. Registrazione gratuita per la tua azienda, indicizzazione sui maggiori motori di ricerca www.inota.it. Inota, il nuovo portale per dare visibilità alla tua attività commerciale. Inota.it è anche il social network con tutto quello che puoi volere a tua disposizione, tutto italiano, con le sfide che ti intratterranno 12 mesi su 12, alle quali puoi partecipare e ricevere i fantastici gadget personalizzati Inota. Inota, inota.it. Condividi foto, video, immagini, crea i tuoi gruppi e partecipa agli eventi su www.inota.it. Inota, inota.it. Chat in tempo reale, giochi multiplayer, videochiamata e tant'altro. www.inota.it, il portale del business. Freestyle con Isabella Iacco, il sound hip hop su CRM è Freestyle. Carry on with the freestyler. She can autograph my pockets. Anytime, any place, any way, I be looking everybody else watching. I don't wanna be obnoxious, but this girl works the gossip. Take away the smile, the tattoos now, forever she very godless. I imagine her topless, she might set off my rocket. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on and popping. She mad marketing, attitude like we arguing. With her by my side, I bring glitter to my life. I should Twitter this girl is awesome. She ain't a rock star, but she got groupies. She ain't no actress, but she make movies. And when she's trust that thing around, everybody be breaking their neck like, ooh, that girl, ooh, that girl, ooh, that girl. She ain't got riches, but she got fashion. She ain't a model, but cameras flashing. And when she's trust that thing around, everybody be breaking their neck like, ooh, that girl, ooh, that girl, ooh, that girl. Hey, I wanna know my mama name, cause that's where she get it from. They ain't never shot her with silicone. Shawty is her and her, and she the real one. Touch one, grab one, feel one. I wish she would've told me that. Ain't nothing wrong bringing the old me back. No mama know her body so trophy glass. She worth every bit of some Chloe bags. Like damn, can I be the police badge? Pull it over, get a little cozy and reminisce on it like an OD jam. Record some sh** on a Playboy cam. She ain't no actress. It's a movie for my mattress. Rockstar, none of that practice. But still, she got bananas. She ain't a rockstar, but she got groupies. She ain't no actress, but she make movies. And when she throws that thing around, everybody be breaking their neck like, ooh, that girl, ooh, that girl, ooh, that girl. She ain't got bridges, but she got fashion. She ain't a model, but camera's flashing. And when she throws that thing around, everybody be breaking their neck like, ooh, that girl, ooh, that girl, ooh, that girl. E non poteva assolutamente mancare il nuovo singolo di Flo Rida col featuring di Kanye West con Wooded Girl, quando siamo quasi agli sgoccioli anche per questo appuntamento all'interno di Freestyle. Ma prima di terminare il nostro appuntamento anche per questa settimana, non potevamo assolutamente mancare con quelli che naturalmente sono i 10 singoli e quindi i migliori dischi di questo 2010, perché non poteva mancare che gli End High Times potessero nominare appunto i migliori dischi di questo 2010, che sta giungendo tra l'altro anche a conclusione. Quindi il critico del giornale ha voluto premiare però un altro rapper al posto del solito, perché Kenny, che di solito viene sempre premiato, che si aggiudica sempre i primi posti, comunque si aggiudica il terzo posto, che non è niente male. Infatti invece alla prima posizione troviamo il buon Rick Ross, che con Telephone Don è poco poi confortante trovare anche Bieber in classifica, mentre tra i singoli troviamo tanto veramente hip hop. Dunque questi siano dei piccoli segnali confortanti per un ritorno alla grande musica urban. Beh, noi naturalmente lo speriamo. Allora, questa è la top 10 albums of 2010. Alla posizione numero 10 Gerald Nierman con Jad Giroud ed è Hand Gary. Alla posizione numero 9 R. Kelly con Love Letter, mentre alla 8 troviamo Just Bieber. Settima posizione per DJ Drame Fabulous con There Is No Competition. Sesta posizione Gary Allan. Alla quinta, quindi zona calda, Titus Andrius con The Monitor. Alla quarta Drake con Think My Litter, mentre alla terza posizione troviamo Kanye West con My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Secondo posto per Taylor Swift, mentre come dicevamo in apertura di notizia, Rick Ross alla prima posizione con Telephone Don. Invece per quanto riguarda la top 10 per i singoli del 2010, andiamo a vedere un pochino, perché troviamo alla decima posizione Lil Lloyd Banks featuring Jules Santana con Bremer Beans of Bentley. E non ha posizione Hilly Goulding. All'ottava Harlow Swift con Hill. E alla settima Cult Go Outside. E mentre si sale ancora troviamo Kanye West featuring Pusha con Runway, Megal featuring J. Cole con All I Want Is You. E alla quarta posizione, quindi niente male, per Chris Brown featuring Drake con T.I., Kanye West, Fabulous e tantissimi altri artisti, un singolo che tra l'altro abbiamo suonato tantissimo noi all'interno di Freestyle, si tratta di Gigi's. Alla terza posizione Lady Antlimbleon con Nidhi Huno. E seconda posizione Rick Ross featuring Gucci Mane con MC Hammer. sentito un pochino che c'ho la prima posizione dei singoli, Waka Flocka, Flame featuring Diddy, Ray Ross e Gucci Mane con Hollet Do Who It, quindi grandi nomi che militano all'interno di questa classifica. E a proposito di Kanye West, visto che lui si trova nei piani alti e quindi alla posizione, abbiamo detto naturalmente, numero 3 della classifica degli album più venduti, questo è il singolo che gira per ora e che fa tantissimo rumore. Si tratta di Monster, tante le collaborazioni come Mick Maney, Bon Iver e tantissimi altri. Just another lonely night. Are you willing to sacrifice your life? Bitch, I'm a monster, no good blood sucker. Fat motherfucker, now look who's in trouble. As you run through my jungles, all you hear is rumbles. Kanye West samples, here's one for example. Gossip, gossip, nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands at the concert. Profit, profit, nigga, I get it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands. The best living or dead, hands down, huh? Let's talk more here right now, huh? And my eyes more red than the devil is. And I'm about to take it to another level, bitch. None of who you going, yeah. Ain't nobody cold as this. Do the rap and a track, triple double, no assist. And my only focus is staying on some bogus shit. Arguing with my older bitch, acting like I owe a shit. I heard the beat, the same raps that get a track pain. Bought the chain that always give me back pain. Fucking up my money, so yeah, I had to act same. Shot nigga, but these hoes love my accent. She came up to me and said, this the number 2 dial. If you wanna make it number 1, you're number 2. Now, Mr. Goose in Malibu, I call it Malibu, yeah. Goddamn, easy, I would hit him with a new style. Know that motherfucker well, what you gon' do now? Whatever I wanna do, gosh, it's cool now. Now I'm gonna do, ah, it's new now. Do you motherfucker really, really need to cool out? Cause you'll never get on top of this. So mommy, best advice is just to get on top of this. Have you ever had sex with a pharaoh? I put the pussy in a sarcophagus. Now she claiming that I bruise her esophagus. Head of the class and she just want a scholarship. I'm living in the future, so the present is my past. My presence is a present, kiss my ass. Gossip, gossip, nigga, just stop it. Everybody knows I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands at the concert. Profit, profit, nigga, I get it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands. Sasquatch, Godzilla, King Kong, Loch Ness, Goblin, Ghoul, a zombie with no conscience. Question, what do these things all have in common? Everybody knows I'm a motherfucking monster. Conquer, stomp you, stop your silly nonsense. Nonsense, none of you niggas know where the swamp is. None of you niggas have seen the carnage that I've seen. I still hear fiends scream in my dreams. Murder, murder, and black convertibles. I kill a block, I murder the avenues. I rape and pillage your village, women and children. Everybody wanna know what my Achilles heel is. Love, I don't get enough of it. All I get is these vampires and bloodsuckers. All I see is these niggas I made millionaires, milling about, spilling their feelings in the air. All I see is these fake fucks with no fangs, trying to draw blood from my ice cold veins. I smell a massacre, seems to be the only way to back you back. Nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands at the concert. Profit, profit, nigga, I get it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands. Pull up in a monster automobile gangster with a bad bitch that came from Sri Lanka. Yeah, I'm in a tanka, color a Willy Wonka. You could be the king, but watch the queen conquer. Okay, first things first, I'll eat your brain. Then I'ma start rocking gold teeth and fangs. Cause that's what a motherfucking monster do. Hairdresser from Milan, that's the monster do. Monster Giuseppe Hill, that's the monster show. Young Money is the roster and a monster crow. And I'm all up in the bank with a funny face. And if I'm fake, I ain't noticed. My money ain't. So let me get this straight. Wait, I'm the rookie, but my features and my shows 10 times your pay. 50k for a verse, no album out. Yeah, my money's so tall that my Barbie's gotta claim it. Hotter than the Middle East and climate. Find it, 20 my Tyrande, wine it, Nicki on them titties when I sign it. All these niggas sell one track minded. But really, really, I don't give a F-U-C-K. Forget Barbie, fuck Nicki, shit, she's fake. She on a diet, but her pockets eating cheesecake. And I'll say, boy, the Chucky is Charles play. Just killed another career, it's a mild day. Besides, yay, they can't stand besides me. I think me, you, and Ian should menage Friday. Pink wig, thick ass, give them whiplash. I think big, get cash, make them blink fast. Now look at what you just saw, this is what you live for. I'm a motherfucking monster. La grande musica hip hop, soul ed R&B insieme a Diz e Yanko. Beh, anche per questa settimana siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento. Speriamo che sia stato di vostro gradimento. La bella musica c'è stata, almeno quanto ci abbiamo provato. Le notizie, le classifiche e tutto quello che concerne. Io vi ricordo naturalmente che Freestyle ritorna tra 7 giorni, quindi il prossimo appuntamento ritorna venerdì, sempre dalle 19 alle 21 su CRM Happy Radio. E non perdetevi i nostri appuntamenti che ci sono nella zona weekend di CRM Happy Radio, quindi nel fine settimana ci ribeccate e vi rigustate di nuovo questa musica. Noi vi lasciamo con un disco veramente strepitoso, è il Disco Style, che ancora una volta si riconferma Miss Elliott, direttamente prodotto da Timbaland. Si tratta di Swat That Fly, un singolo che sta viaggiando veramente in maniera strepitosa. Io e Yanko naturalmente vi ricordano, divertitevi sì, ma fatelo in modo molto ma molto intelligente. Vi aspettiamo tra 7 giorni. Thank you. Freestyle vi dà appuntamento fra 7 giorni.